Allora, Mosè e i figli di Israele intonarono questo canto al Signore e dissero: canto al Signore, perché si è mostrato grande. Cavallo e cavaliere ha gettato in mare. Mia forza e mio canto è il Signore. È stato la mia salvezza. Questo è il mio Dio, lo voglio onorare. Il Dio di mio padre, lo voglio esaltare. Il Signore è un guerriero, si chiama Signore. I carri del Faraone con il suo esercito ha gettato in mare. I suoi capi scelti sono stati inghiottiti nel Mar Rosso. Gli abissi li ricoprono, sono scesi nelle profondità come una pietra. La tua destra, Signore, si illustra di forza. La tua destra, Signore, fa a pezzi il nemico. Con la tua grande altezza rovesci chi ti sta di fronte. Mandi la tua collera, li divori come paglia. Con l'alito delle tue narici l'acqua si è ammucchiata, le onde si sono erette come un argine, gli abissi si sono rappresi nel cuore del mare. Il nemico aveva detto: lo inseguo, lo raggiungo, ne riempio la mia anima, sguaino la mia spada, la mia mano li conquista. Con il tuo alito hai soffiato, il mare li ricopre, sono sprofondati come piombo nell'acqua possente. Chi è come te tra gli dèi, Signore? Chi come te, magnifico in santità, terribile in imprese, che fa meraviglie? Hai steso la tua destra, la terra l'ha inghiottito. Con il tuo favore hai guidato questo popolo che hai riscattato. Con la tua forza l'hai condotto verso il tuo pascolo santo. I popoli hanno udito e tremato. Spasimo ha afferrato gli abitanti della Filistea. Già sono sconvolti i capi di Edom. I potenti di Moab sono presi da fremito. Si squagliano tutti gli abitanti di Canaan. Su di loro cade paura e spavento per la grandezza del tuo braccio. Restano immobili come pietra finché passi il tuo popolo, Signore, finché passi questo popolo che tu hai acquistato. Lo condurrai e pianterai nel monte della tua eredità, luogo che hai fatto tua dimora, Signore, santuario, Signore, che le tue mani hanno preparato. Il Signore regnerà in perpetuo e per sempre. Poiché quando il cavallo del Faraone con il suo carro e i suoi cavalieri entrarono nel mare, il Signore fece tornare su di loro l'acqua del mare, mentre i figli di Israele avevano camminato all'asciutto in mezzo al mare. Maria, la profetessa, sorella di Aronne, prese in mano un tamburello, e dietro di lei uscirono tutte le donne con tamburelli e in cortei danzanti. Maria intonò per loro: cantate al Signore poiché si è fatto grande, cavallo e cavaliere ha gettato in mare. Thank you. Mosè fece partire Israele dal Mar Rosso e si incamminarono verso il deserto di Sur. Andarono per 3 giorni nel deserto e non trovarono acqua. Giunsero a Mara e non poterono bere l'acqua di Mara perché amara. Perciò fu chiamata Mara. Il popolo mormorò contro Mosè: «Che cosa beviamo?» Egli gridò al Signore, che gli mostrò un legno. Lo gettò nell'acqua e l'acqua diventò dolce. Là il Signore gli impose un decreto e un giudizio. Là lo mise alla prova e disse: «Se ascolterai la voce del Signore, tuo Dio, e agirai rettamente ai suoi occhi, se presterai orecchio ai suoi ordini e osserverai tutti i suoi decreti, non ti infliggerò nessuno dei flagelli che ho inflitto all'Egitto, perché io sono il Signore che ti cura». Giunsero a Elim, dove ci sono 12 sorgenti d'acqua e 70 palme. Vi si accamparono presso l'acqua.